Tutti i passi dunque che noi stiamo percorrendo sulla strada sono passi in cerca della felicità. Ditemi voi se c'è qualcuno in questo mondo che va in cerca di qualche cosa d'altro. Questa osservazione io la faccio ogni tanto, quando ho un minuto vado sulla terrazza della nostra piccola casa del Viale Vaticano Roma e guardo tutto quel nastro di macchine, pullman che va, che viene, tutti hanno fretta, motorini, ecco, biciclette, chi cammina a piede veloce e corre sul marciapiede, tutti hanno fretta, quelli che vanno e quelli che tornano, tutta gente che va in cerca della felicità, sì, tutti, ma non c'è nessuno che va a lavorare se non per la felicità sua e della famiglia. Che uno monti il turno di notte o il turno di giorno, che uno debba fare il meccanico oppure debba fare, non so, il medico, faccia l'infermiere o faccia il banchiere, ecco, o sia una casalinga o sia un insegnante, tutti si cammina. Chi va a fare la spesa, chi va a pagare un debito, chi va a pagare una tassa, tutti, chi va al cinema, chi va ai monti, chi va al lago, chi va al mare, chi mangia gli spaghetti, chi mangia polenta e baccalà, e tutti siamo così. Andiamo dal barbiere, andiamo dal sarto, andiamo dal calzolaio, andiamo sempre. Ma ditemi voi, in questo mondo siamo venuti per allenarci alla gioia di Dio. E già da bambini hanno dovuto comprarci i giocattoli, no? Perché bisognava che noi imparassimo da bambini a divertirci, a essere contenti. E i genitori si sono sentiti obbligati di comprarci i giocattoli. È un capitolo importante di pedagogia, il capitolo giocattoli per i bambini. Bisogna! E se il bambino è di famiglia povera, avrà giocattoli poveri, ma giocattoli! Giocattoli! Perché siamo venuti al mondo per giocare, per essere felici, in attesa di essere riassorbiti da Dio, nel suo oceano senza fondo di felicità. Tutti, e anche di notte sogniamo, e sì che andiamo a letto, siamo stanchi, siamo lì proprio affranti dalla fatica. Eppure anche lì, col corpo che giace a letto, noi sogniamo, chissà cosa sogniamo, la luna nel pozzo, non so cosa sogniamo, perché anche quando siamo lì così, nella inattività fisica, bisogna che noi ci divertiamo. Tutta la vita è così, tutti si muove in cerca della felicità. Perché? Volete sapere il perché? Ma certo che lo sapete, perché siamo partiti dalla felicità di Dio. Siamo partiti, la spinta alla vita ci è venuta dalla felicità di Dio. E quella stessa felicità, chiamiamola provvidenza divina, chiamiamola amore divino, ci tiene in vita. E ci attende al varco, abbiamo detto, al valico della morte, per introdurci in un abisso di vita e di felicità. Dovunque, in qualunque momento.